Sì, sì. Sono su 10. Ah, pensavo sopra io. Oh no, io non vado sopra niente, sopra il camion è buco. C'è sopra il camion, bella questa. Mi sa che c'è la sospensione del rimorchio bassa, vero? Mi sa di sì. La leva, io non la vedo la leva da qua. Mi sa che è bassa, io devi fermare a girarla. Ma padrino, sta uscendo fuori di testa. Gliene manca, padrino. Ah? Yeah. No, mettimi perché è uno sportello, cara. Che matto che. E domani me ne vado da Iba e ciccia. Piano piano, dai, piano piano. Domani che cazzo è? Domani è mercoledì? Domani è venerdì. Domani è venerdì, c'è un'afra, 6:30 ce l'ho presto, così me lo sbrigo subito. Sì, già va bene, boiate, come dice il livornese. Adesso siamo da un po', sta iniziando a mancare il livornese. Dai, adesso già ci accontenta, piano piano, vai tranquillo, che sta iniziando a aumentare qualcosa, su. Già me l'ho immaginato, il fatto che ha chiesto, su Genova mi volevo, però, non su Livorno. Ehi, su Genova, allora, anche a me ha detto su Genova, ma gli ho detto che non posso questa settimana che viene. Io sono un po' indeciso, mi ha detto fammi sapere, però minchia, mi incasino troppo, mi cerco a far roba in mezzo ai piedi, alla fine poi mi incasino troppo. Non so cos'è, ma se te la sbrugni, se in tal caso te la sbrugni è fatta fatta, capito? Poi vedi te. No, quello sì, no, ma a parte quello, cioè, non, anche se poi me ne faccio anche un'altra non mi interessa, non è quello, però mica sono un po', te l'ho detto, mi incasino di altre cose. Posso, vedi tu, io questa settimana che viene non posso, va, no, non fa. Mi ho messo in mezzo un po' di roba e la verità è un casino, la verità. E vabbè, se c'hai anche da fare, giustamente, anche le commissioni bisogna farle. No, quello è capito, poi l'ho deciso, organizzato con tutti e cosa faccio adesso, cioè, sono indietro così, no? Già ce n'è tempo, già li trovo altri due. Penso di sì. A voglia. Ma sto fischiando, ogni tanto sento un fischio, lo sento solo io. No, stai fischiando ogni tanto, ma pensavo che ero io, ma invece no. No, è il mio che ogni tanto fischia, c'ho tutto al minimo. Vuol dire che gli piace fischiare ogni tanto. Guarda così. Così no, così sei perfetto. Ho abbassato tutto al minimo quasi. Poco a poco ha fischiato, ma poco poco, mi si è sentito proprio piccolino piccolino. Accenditi le luci. Sarà perché siamo troppo vicini, boh. È probabile pure, no, era buona, o no? Senti così? No, così va bene, aspetta però che prova a distaccarmi un po', a vedere se è quello davvero. Oh, tutto basso, cioè, tutto a zero. Vedi, anche adesso ha fischiato, poco ma ha fischiato, aspetta che mi allontano un po'. Oh, secondo me perché si avvicino qua, non lo so perché mi fischia. Lo sto sentendo, poco poco però lo sento, non c'entra niente quello. A me già mi senti bene, sì, l'ho tutto bello riparato ora. Minchia, perfettissimo, sì sì. Cappa. E l'hai messo a posto, me l'hai detto? Sì, l'ho messo a posto, era tutto disastrato, era. C'avevo un lago che non saliva più, il finale che stava almeno a fanculo, insomma un po' di lavori gli ho fatto fare. Una messa a punto, vai, come dice l'Olbiese, una messa a punto. Oh, io la verità lo uso poco poco, qua, boh, se non è che magari incontro a te lo accendo, ce l'ho sempre spento, boh, però magari incontro a te lo accendo, a volte quando vado a Roberto, a volte, ma se no, la verità, lo uso poco, poco, poco. Anch'io lo uso poco, guarda, quella settimana che ho fatto su non è coinciso con nessuno, perché nessuno aveva il baracchino, e niente, quando capita a salire con lui, nulla, se no, niente, è sempre spento, quando incrocio che vedo qualcuno che conosco, accendo, se no niente. Però su, tipo, quando saliamo insieme, già è bello, sembra così, se fai un viaggio assieme, a volte qualche giorno, cioè è bello. A voglia che è bello, a voglia, solo che, no... Non c'è nessuno, capita di andare assieme. Ma secondo me adesso un po', Oh, la verità a me fanno adesso mica qualche soldino in più fa comodo. A voglia. Niente, no, io ripeto, questa c'è la scorsa e magari da qui a una settimana, due settimane già salgo volentieri, ma già non mi chiedo. Oh, la verità, un po' il giorno che parte prima di andare. Niente. E comunque nulla, là, adesso va magari la via, anche io, problemi non è, non mi tiro indietro. vabbè, già non se la prende per quello, già lo sa, non so. Anche a me mi chiama sempre, mi dice così, sto chiamando per quelli che non rompono i coglioni. Inganna te, lo voglio. Attenzione, canale 10, cambio. Ciampa di rimuta, andiamo so. Giovanni Stanco, fai da bravo. Ti ho risposto, dove sei Giovanni? Mezzo al QRM ti ascolto. C'è un po' di propagazione, Giovanni. Un casino, quello si passa. C'è troppa propagazione. Va. Non lo so, buco. Un attimino, Giovanni, che faranno un attimino in bagno. Attenzione, finale 10, allontanarsi dalla linea gialla. Chi è? Avanti, buongiorno. Ciao, le calenca, Gianni. Chi sei? Col monello di Torino Cafasasa. E tu, quel braccio ancora di Gianni doppio rumbo. Brutto delinquente, come diceva Paolo. Ti faccio fare il brodino di mamma. Dai, rubato, barica, aiuto, fa vedere. Fratelli, andate in pace. Un segno di pace e un calcio in culo. Ce n'è nessuno già. Ma io sto tornando adesso dalla farmacia, e domani devo fare le analisi, cioè la promessa però era scaduta e sono dovuto andare a comprarla. Nemi, farmacia, hai ricordato, sì, ho ordinato il pantoprazolo, e cioè ce l'ha mandato, penso di sì. Insomma, mi sono fatto una bella favata, oggi. Alla giù. Cappa, stamattina mi sono alzato, buonanera, 4:30, e ho iniziato a preparare. Fare 4:30, non vi grido. Non c'ho più sonno, come buono in conto. Mi sono preparato le fave, ho messo il giorno prima a bagno Maria, di acqua tipica con bicarbonato. Poi sono gonfiate, messo le pentarole, ho messo a cucinare, poi intanto mi sono preparato la carne, poi mi sono preparato il cipollone, poi mi sono preparato il finocchio e poi la verza. Finocchio selvatico di adesso? No, il finocchio, quello dei giardini di Sassari. Quelli chi? È finocchio normale, dai. Ma io li metto selvatici, che danno più sapore, sono più buoni. E vabbè, comunque vanno bene lo stesso, da. E quindi ti ha fatto la grossa mangiata. Quanto c'è di glicemia? Un po' messa lita, vabbè, la gente si è abbassata. Aspetta, io ho fatto il video, ho tirato la tonta e mi sta scendendo il buccio, aspetta. Un po' qua, non c'è bisogno di fare la descrizione. Il buccio è bello, Che schifo, Antonino. Pierino la peste. E garito. Ma che fa con i patatini nel giro? Nel mio cingomma. Cingommi! Tu era bello buccio, se ne suona proprio oggi. Era freddo, bello. E dove ci andate? Aspetta. Che ti succhio una fazzoletta. Che discorso interessante. Guarda che era bello trasparente, non era quello buccio verde. Porra la mamma mia, che schifo. Gianni doppio rinzi linguende. Ehi, Tatarino, ciao tu. C'è successo questo Torino, se li può fare in caccia dell'ana, ti immagini la descrizione del mucchio che sta facendo la sua faccia. Anche quella è roba genuina. Chissà nelle fave quanto ne è sceso. Non penso, non me ne scendo, a me continuano a stare molto, capito, tiro due soffiette di tirare a posto. Niente, cosa mi sono appoggiato a fare la pennichiera stasera, mi squillava sempre il telefono, mare, quello, quell'altro, insomma, mi sono rotto le palle, ho messo in carica, ho spento il telefono, poi l'ho acceso, ho chiamato una parte all'altra, ma avete chiamato? No, hai spiegato il fatto, tutto a posto anche. Io grazie a Dio l'ho messo in carica e mi sono godrumi due. Sia io che te, tutti e due ci siamo addormentati. Natali, ripeti. Eia, a me mi sembra quel Gianni doppio giù sia delinquente. Delinquente se tu sei cuoco. E tu delinquente. E si mangia brodino di marmo. Così impara, ma te lo immagini sempre. Contro Nino ce l'ha questo delinquente. Io proprio che non faccio mai niente, sono di specificato giustamente, perché se lì il consultante devo fare qualcosa, lui ci vuole sapere cosa stai facendo e come è fatto e dove l'hai preso, capito? Allora glielo spiegate 2 secondi. Adesso concentra, anche se non stai lì, ha sentito la tua descrizione, ma ti sembra giusto? No, che poi ho abbassato il volume. Avanti, chi chiama? Bassissimo, sul topo che sei Bruno, ma ti sento basso. Magari anche il QRM è Bruno. Sei bassissimo, dove sei? Però basta il volume, vediamo. A livello QRM. Cosa hai combinato? Sei basso anche di segnali. Non è la tua radio. Dai già che io vado a buttare la spazzatura. Carlo, che mi sono dimenticato di buttarla. E più c'ho anche il numero dell'otto che sono giocato. Mia figlia era lasciata in macchina, faccio gliela porto. E poi dietro a casa, così ci sentiamo. Io l'ho buttata quando sono andato in farmacia. Cappa, avanti Natalia. Faccia pure quello che deve fare. Ciao Natalia, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Occhio a non dare troppo slancio, la mondezza quando la butti c'è che ti fare il blu dentro. No, stai tranquillo che c'è anche il filo del muccio appresso. Ciao Tony, dai, ci sentiamo dopo. Avanti Natalia. Oia, sempre con questo lecca, sì. Natalia, lo senti a Bruno? A chi? A Bruno, lo senti? C'ho un po' di QRM. Se magari in macchina no. Ha detto che questo è il baracchino che l'hai aggiustato tu ieri. E non sta uscendo, sta uscendo bassissimo, ma basso baro. Ma dov'è però? Vicino a casa, via Valdenda. Il cavolo. L'antenna si deve regolare. Avrà il radialino. Il radialino era al rovescio, messo in posizione diversa. Ma che antenna c'ha? Una boomerang c'ha. A meno che non sia giù in garage, in macchina, è logico che non lo sento. Adesso è migliorato. Bruno, non lo sentono. Aspetta che sta parlando Natalia. Oh Bru, adesso è migliorato come... No, ma non è il microfono, non è la radio del microfono. È proprio, sta uscendo basso anche di segnale. Quindi sei a casa o in macchina? È in macchina, sto andando a casa a provarlo da casa. Va bene Bru, dai, siamo qua. Attacca, facci sentire, facci sognare. Devi deciderti a mettere un apparecchio come si deve. Ne vengono diversi adesso belli. Te lo metti in macchina come si deve e via. Tanto stai gira, ti fa innervosire e basta così. Cazzo, io ne ho uno piccolino della Intec. Per la macchina. Guarda quanto ci vede. Ma se c'è la Fayette, Bruno, in garage, c'è la Fayette, la KB23 c'ha. Poi chi c'è Bruno, vedrai come ti schicchia. Infatti, tanto c'è la migliore, adesso sempre su 10. Poi basta che abbia un microfono come questo, 9,90€ in offerta, e esce bene forte, veramente. Con quella Fayette vedrai come esce con la KB23, che la KB23 pompa forte. E anche il coso c'ha, il 5024, però è in garage, non ce l'ha in garage suo, ce l'ha da altro. Vabbè, lo stesso garage. Vabbè, deve recuperarli quegli apparecchi. Pagato. C'è da consiglio a me, si compra questo microfono, questo che sto usando io adesso della Midland, lo mette nella KB23 e lo vedi come esce. Ho un altro microfono, è quello che vuole lui si mette. Ma anche quello della KB23 e quello del Tokai escono forti i microfoni. Sì, è vero, sono precompresi. Io l'ho avuto, tocca a 5.024, l'ho avuto 3 o 4. A me me ne hanno furato, non l'avevo nuovo nuovo. Ma nuovo di spacca era quello che hanno rubato a me. Celestino era con la... con tutte le gomme nuove nuove, guarda, me l'aveva regalato Mario, mi è dispiaciuto un casino me l'abbiano rubato, ci va veramente bene quello lì. E io ce l'avevo lo stesso nuovo così di pacca, non c'aveva un graffietto. Poi è venuto un amico una volta, l'ha vista, io sono venuto fuori, dimmi quanto vuoi, e me l'ha pigliato. Già ho capito, quello che beve il whisky è. E allora, e ce l'ha lui, mi ancora ce l'ha. È un cavolo te ne molla di qui. K. Ce l'ha preso quello, il Telsat, insomma, un paio, due o tre le aveva preso. Lo so, perché lui è collezionista, capito? E vabbè, comunque, come sta uscendo questo microfono da 9,90 euro? Benissimo. Vedi, ho fatto l'affare, abbiamo fatto l'affare io e Franco della stazione, però solo che a lui li innesca, a me invece non, a me mi va bene, a lui si attacca, li innesca. Evidentemente non è piazzato bene. Magari è poco schermato, capito? C'è qualche filo che tocca, se gli innesca. Poi ha il filo morbido, Natalia, di quelli belli, c'hanno il filo morbido, che puoi tirare carte di Biagi. Ho capito. Oggi come me non è entrato nessuno, Carlo ha problemi all'apparato, te l'ho detto che ieri parlando gli si è spento e non riesce più a capire che cos'è l'Albrecht, quello lì gli si è spento di colpo. E controllato se si è bruciato il fusibile per caso. L'abbiamo fatti tutti i controlli, abbiamo fatto controllare il fusibile. L'ho fatto controllare il cavo per vedere se era interrotto, se c'è continuità, perché per un po' come l'ha mosso si è acceso, quindi c'è qualche falso contatto secondo me, o si è staccato qualche insalatura a freddo. No, il portafusibili è che fa falso contatto già. No, gliel'ho fatto muovere Natalia, gliel'ho fatto muovere anche quello, e anche quello abbiamo provato, gli ho fatto controllare il fusibile ed era buono, gli ho fatto muovere il portafusibile lo stesso, niente. E io non ero divertito di macco Natalia, che non si accedeva l'apparecchio, sai cosa è successo? Si è staccato lo spinotto da dietro della cosa, lo spinotto dell'elettricità. Dell'alimentazione, forse non accendeva. Non capisco come, forse muovendo, facendo, se l'ho staccato, là. Ma era una presidia, gli ho attaccato lo spinotto e si è riacceso, e a manco ariga. Pensavo che fosse partito. Chissà se ha risolto, perché detto che stamattina se l'avrebbe a parte controllato col tester e tutto quanto, per vedere se ne cavava a piedi. Magari ho interrotto il capo dell'alimentazione in qualche punto. Anche io gliel'ho detto, che se ne serviva il capo dell'alimentazione ce l'ho già pronto col fusibile, gliel'ho detto che glielo do io, che non c'è problema. E quello non è interrotto, perché ce l'avevo sull'apparecchio qui, l'ho venduto e ce l'ho staccato quello lì. Mi serviva a me, quindi quello lì ce l'aveva e mi ha detto, ma già ce l'ho, non c'è problema. Quindi io gliel'ho staccato e me l'ho preso, perché mi serviva. Ma è strano che più che qualche falso contatto non è, magari si è interrotto il cavo da qualche parte, oppure il portafusibile difettoso. Io gli ho detto di controllare ancora anche le saldature dove portano i fili della tensione, per vedere se c'è qualche saldatura fredda, capito? Se magari c'è qualche saldatura fredda si può essere staccato, fatta, basta rifarli e basta. Tante volte è una cazzata, avevano il televisore di casa, era una saldatura fredda, però ho rifatto la saldatura e si è ripreso d'estate, è successo, dice che come scalda si sciolgono, col caldo sì. Te l'ho rifatta la saldatura, ma sono andata, oh, piovina, sta lì, manco, e adesso riprovo a fare le saldature, ho provato a fare la saldatura, due si è atteso. E a chi aveva il suo contatto con la saldatura fredda? Infatti può essere anche quello, una saldatura fredda, gliel'ho detto, cazzo. Può essere quello, può essere fusibile. Se poi escludi tutte queste cose sarà qualche componente in perdita, che perché si è acceso per un attimo, hai detto muovendo filo, questo e quell'altro, si è acceso per un attimo e poi si rispetta. Perché il diodo non può essere, se no se era stato il diodo non accendeva per niente. Qualche falso contatto, cioè. L'ho detto anch'io che qualche falso contatto secondo me, ma adesso ci farà sapere. Stavo uscendo col baracchino della macchina, stasera penso che lavori, ma stamattina ha detto che gli dava un'occhiata più tranquillo perché c'è luce la mattina, la sera non si vede nulla. Stamattina è entrato uno nuovo, era un vecchio CB, si chiama Battista, un ex camionaro che in pensione si è messo l'antenna fissa. Dove abita? A Sassari? E io? No, questo Battista non ce l'ho presente. Vabbè, comunque, se mi dice il nominativo magari riesco a capire chi è. Ma comunque tutti i camionari stanno eliminando i baracchini, in continente l'isola ancora, ma qua prima c'era Domenico Tarzaretto, ogni sera alle 7:30 partiva e l'accompagnavamo, fino a dove ci arrivavamo l'accompagnavamo. Sì, lo so, no, questo parlava nel lontano 81, ha parlato anche con me, non mi ricordo il nominativo, me l'ha detto ma non me lo ricordo. Ho capito, ti dice qualcosa il nominativo? No, non me lo ricordo a lui veramente, però se lui ha detto che io ti ho parlato con lui, evidentemente è vero. Magari sei tu che sei sventiato. Sto diventando vecchio, la vecchiaia è carogna già. Sì, vecchio. Se tutti i vecchi fossero della tua età, allora ce ne sarebbero tanti vecchi. Se dice che l'età sta prolungando anche sino a 100 anni e oltre, che tutto è avere un'alimentazione sana, fare movimento e avere un'alimentazione sana. E poi dice che le cose vanno avanti, se non ti viene qualche tumore, qualche malattia, riesci ad andare avanti. Lo so, purtroppo io non ci arriverò a quell'età. Che cosa ne sai, sai? E lo so, se te lo sto dicendo che lo so, io sono messo male veramente, mi pare così, ma sono messo male. Ma lo sai quanta c'è la gente Natalì che ha 1000 acciacchi e muoiono prima i giovani? Cazzo, se sei visto quel ragazzo, un incidente, sono tutti morti 17-18 anni, quindi non si può mai dire, È possibile che uno campi anche a lungo, anche se ha delle malattie, mio suocero è stato operato, fatto, eppure ha superato i 90 anni. Non so, io pure sono stato operato 3 volte, sono stato operato e fino adesso già ho tirato avanti, solo che sono messo male e quindi non penso di arrivare a quell'età. Guarda che solo quello che c'è in alto decide chi deve vivere e chi deve morire. Quando deve morire non lo decidiamo noi. Già lo sai, non basta un infarto e si rimane. Però bisogna vivere la giornata e pensare di campare a lungo. Se no poi ti abbatti ed è peggio. Lo so. Avanti. Buona, buona. Prova a vedere. No, devo capire se era il baracchino o se era la macchina. Se era la macchina. capire se magari questo problema è un tempo, perché adesso sto usando una casa. Adesso guarda, va bene, sì, chiaro di radio, il segnale è buono, dai, è buono, 9.25, 9.30, sì. Comunque potrebbe essere anche una macchina, hai fatto un piccolo legamento. Misura le stazionarie, quelle antenne lì, sai cosa devi fare? Ogni tanto con la lana d'acciaio e CRC, ti spruzzi il CRC sulla lana d'acciaio e glielo passi, poi gli faccio uno straccio e c'è tutta la roba nera e ti elimina tutte le stazionarie perché si riempie di smog, capito? L'antenna della macchina. Ma quella è quella del tutto che ho comprato, usata 5-6 volte, 10 volte in tutto. Vabbè, lo faccio, non so che sia così sensibile. Però, siccome io una sera stavo curando, non sapete anche tu, non è l'utile a San Francesco, che colpo moltissimo più adesso con il segnale c'era abbastanza. Allora portando questo microfono, abbiamo registrato il microfono, ci siamo andati indietro, sono fatto. Adesso sì che ti sento. Io stavo già giudicando la Natalina, ragazzi, me l'ha aiutato lui il microfono ieri. No, no, il microfono esce bene, non è questione di microfono. Ma siccome l'ha toccato Natalina, lo sai che quando tocca qualcosa fa tanto. È un po' citofonica la radio, però è forte, è bella. Adesso prova a cambiare il taratino per vedere come fa, dai. Prova a mettere quello che c'è in garage blu, la Fayette, la KB23, e poi mi dai la ripulsa. E ancora se non è la città modernizzata, adesso metto un dischetto che mi ha dato una ripulsa. Aspetta, c'è baracchini pure, non li usi, avete quelli lì che vanno bene, il tocca c'è la radio anche precompressa, avete quelli lì che vanno più bene. E vabbè, garage, io sono giù, vabbè, quando vai, o lo dici Aldo un giorno e cosa ci vuole? Aldo viene, ti apre e niente, lo prendi da via Valdetta. Già ritrova 5 minuti a darti questa roba. KK. Ohia, se no glielo dico io, me lo prendo io. Ah? Natale, li avete ripristinati gli apparecchi, ma gli apparecchi vanno bene, non sta uscendo, secondo me o non fa massa l'antenna Natale, o c'è stazionari. Già l'antenna su una base magnetica lui, bisogna vedere come si cattura attaccata, se la reca messo in 5 minuti la dimonteggio, gatto e la baito a vedere. Adesso va meglio, là. Fate un intervento, quindi c'è sempre il telefono, vedi là. Ma è 4.30, eh. Ah, boh. Aspetta un pochino. Sì, lo conosco, l'ho avuto anch'io. C'è lo spinotto di quelli lonfi che quando tiri il microfono te ne esce lo spinotto, senza ghiera. Allora, io ho detto che ho fatto di più. Ma guarda, io ho detto che ho fatto di più. Ma poi ho fatto di più. Io quando salivo tutto lo scorso a parlare da San Francesco, andavo a Requesco, con la medicina, qualsiasi lo scorso. Allora mi stavo facendo un punto che stavo andando alla massima, io l'abbiamo controllata, non è neanche a massa. Bru, controllati la massa dell'antenna anche, che non ci sia ruggine, che massa dell'antenna che tu hai messo nel bulbo, che hai messo nella base magnetica, che non ci sia ossido o roba del genere, una bella pulita e poi da ripiazzi, vedrai che esce bene, perché non mi sembra strano. Io la mini turbo l'ho avuta per un bel po' di tempo, non mi ha mai dato problemi. Ma qualche giorno fa l'ha usato, l'ha usata tanto poco, ora ci stanno facendo un po' le cose, la cena nuova già da tutto, l'ho usata paio di volte, per cui non so se ha avuto verso la conta, perché ma l'ha fatto di colpo, ho visto che l'antenna era lenta, allora l'ho aperta sotto ed ho bloccato quella velocità e l'ho bloccato pensando che forse non faceva più niente. Adesso che si chiama il gioco, si chiama e io vi faccio tutti i contatti. Tanto che sono un amico che ha un certo distacco di quello che è migliore, che è quello di 14 che io non so io. Per cui se riesco anche a mettere in contatto con questo amico, mi ha detto che ha un paio di metri di toccato di grigio e gli metto direttamente quello, non so. Non se ne trova a comprare, però la devo comprare. L'H100. Ma sto parlando con un amico. Questo è una lettura del soffetto grigio, sto capo grigio, ma adesso forse si costruisce, sai vedere, non so, ma perché se si trovasse avrei cambiato anche un cavo di questo della Duna. L'H155, quello grigio. H100 e dai, se è Frank che te lo dà, ho capito già che cavo è, perché l'abbiamo preso tutti insieme e poi ce l'abbiamo diviso, ne abbiamo preso 100 metri in occasione e poi ce l'abbiamo tutto diviso. No, non è... Comunque straordinario, da internet che ne trova, possiamo fare una doppiata, una doppiata di voi, dipende da quanto, stiamo guardando il gioco. No, io me ne sono preso 30 metri perché 20 mi servivano qua per l'antenna del tetto e poi ho cambiato tutto sul tetto, ho cambiato il cavo, ho cambiato il tubo, ho cambiato l'antenna, tutto quanto, tiranti, io ho rifatto tutto a nuovo. Ma le regiotte lo odio perché tu su una valla ti fa muovere tutti gli strumenti, giù un casino. Invece questo qua c'ha grossa resa fino come le regi 58. No, ma l'ho visto, l'altro giorno un amico mi aveva un po' di basso, ma se voleva usare, questa però come ho detto, c'è un po' di basso, non ho detto ancora, non ho detto niente, ma c'è un po' di basso, c'è un po' di basso, c'è là, tanto si usa, io ho dato che mi sono incontrato, la vittima di lui con l'antenna, non era più in balcone, non lo so, ho fatto niente per la macchina, ma e vuol fare, bisogna trovare la gente che se lo divida. Noi l'abbiamo fatto perché era un'occasione di un amico che ce l'ha comprato, poi non ha più piazzato nulla perché c'ha il tetto che non permette di salire, bisogna andarci con le corde perché di quei tetti spioventi e nessuno ci vuole salire, quindi ha preso, ci ha venduto di nuovo tutto, ci ha venduto la penna, ci ha venduto il cavo e l'abbiamo preso tutto noi, capito? Ma strano però, se queste aziende non vengono su quel tipo di strada, anche mi informo tramite qualche ore, sono più ordinato, anche la strada, sono andato da studiare, ma là c'è questa specie di RG 38, no? Ah, sottile, fa schifo, perché stanno, io ho pensato il piede già, se non prendi, tiro e mi si scappa. Sottile, sottile, positivo all'interno, è talmente sottile, che se non fa attenzione se ve la mano. L'RG58U è quello migliore di quello normale. Io avevo l'RG58U e mi è durato 12 anni, senza mai darmi problemi. Ecco, buonasera. Ma come questo, non si chiama la mia, è già, è la mia, è la mia. quello lì è l'H155, quello grigio già. C'è Gavino che ha fatto un break. Avanti Gavi, buonasera. Buonasera Gianni, buonasera a tutta la ruota. Ciao Gavi, ciao, ben sentito. Avanti Natalino. Ciao Gavino, ben sentito. Ciao Natalino, buonasera. L'altro amico lo ascolto, basso, ma non credo che sia lui, ma sono io, perché sono con l'altra antenna. Riprendi Gianni. No, Bruno sta uscendo con una boomerang sul balcone, penso che è sulla Budi lì. Non esce tanto forte, però magari secondo le zone dove punta l'antenna esce, capito? Avanti Bruno, avanti, sei arrivato nella strada di sorso, dai. Ma io ho fatto la risposta, tutto, ma non ho sempre neanche la cosa di chiusare, tutto disgraziato. Comprati qualche aiutino per l'attacco. Ma poi non è la recensione, non è, se ne ha sentito lui, tanto basta, non ha sentito, non ho sentito la vita in più, diciamo che il problema è che non è. L'antenna vuole messa sul tetto, proprio così lo sappiamo, no? Non è adesso esserci in frequenza. L'antenna, se tu la metti sul tetto, ti dà una certa resa. Se la metti attaccata al muro o vicino dove ci sono ostacoli, è normale che la resa non te la possa dare al 100%. Avanti Natalia. In effetti è così, lui ce l'ha in una staffa lì, ce l'ha puntata a Sassari 2, ce l'ha puntato il radialino, figurati. Quindi c'è Emanuele che esce bene, perlomeno io lo sento bene. Natalino. Avanti Gabriele. Natalino, cosa ho messo 40 litri d'acqua di fuoco con la radio? Come Antonio? Gabri, non ho capito. Cosa vuoi messo 20 litri d'acqua di fuoco stasera con la radio? Venuto arrivando forte stasera, cosa ti è successo? No, il macchinino ce l'ho alzato stamattina, aspetta che lo metto come la prima, cioè, così è normale. No, mi sta arrivando benissimo a me, adesso dopo ventura, mi sta arrivando forte. È un MB più 4, è questo, ed è anche a metà. No, va bene, ti sento chiaro. E io ho un Superstar 3009, però è omologato questo qui, è un robot Sabriac, sennò peggio l'omologazione, compreso, c'ha solo 40 canali, c'ha tutto, però manda laterali, tutto quanto, solo che è omologato e c'ha i canali chiusi, 4 watt solo, dai, boh. Anche io c'è il Superstar. Di radio come sto uscendo io, Gavino? Penso che è Superstar 3009. Sto uscendo un show, anche io con MB4. Però mi sto arrivando bene stasera. Ho anche il filtro attivato perché ho un'alternata qua su, non ho capito cosa c'è qua vicino che mi sta creando problemi. Secondo me la cabina elettrica. Secondo me la cabinetica, però mi sto arrivando bene. Gavi, anche io c'ho il 3009 stasera, come sto arrivando di radio? Allora vabbè già, tu mi arrivi sempre bene, sì, è perfetta. Ma cosa manchi tu nel MB4? No, questo è quel microfono che ho comprato in offerta al 9,90 della Midland. È positivo, ma quello là lo promette che vuole il MB4, e le condizioni sono diverse, lo vuoi? No, non sono diverse, ma non aggiungare, diciamo, staccare, perché gli ho dato una posizione praticamente al cavo che deve rimanere così, perché se no si muove sempre, e l'ho fatto passare dietro la manopola del Galaxy, e poi hai visto il Galaxy che c'ha quegli incavi per mettere le viti, e poi l'ho fatto passare lì e rimane bello, cioè, se lo tocco oramai gli ho dato il coso, gli ho dato la posizione giusta, non lo voglio toccare, capito? Sinceramente già va bene. bene, gli va bene anche questo qua, dai. Sì. Natali, ho messo le antenne tutte a massa, ho fatto tutto un impianto di massa a terra, sì. Tutto un impianto di massa a terra nelle antenne, che vanno qua al fuzzotto, ho messo il fuzzotto, tutto lo radio con la massa a terra. E QRM è abbassato, ci si è? Sì, il QRM mi si è abbassato, però io qua ho qualcosa che mi sta creando alternata, capito? Infatti stasera non ho acceso diciamo, il chimico, facendo un supercazzo, però ho fatto tutto l'impianto, allora sul tetto l'ho fatto tutto con la treccia, diciamo con la treccia da 1,2, da un centimetro 2, e nello radio ho messo i cavi da 2,5. Tutto collegato al paletto. Ecco, visto che la sua sta andando meglio. Mi è copiato Natali. Sì signore. Si sente un casino Natali quando premi la portante, si sente più televisore e te quasi qua. E mia moglie sta guardando sul televisore, capito? Capito già, ho preso e l'ho fatto tutta la terra, le antenne. Sì, capito, ho sentito stamattina che stai facendo quel lavoro, dai, hai fatto bene. Diciamo che a me mi avevano detto il contrario, lo volevo fare anche io, però mi hanno detto di non farlo perché tirava i fulmini. Vabbè, ognuno ha le sue idee, le sue cose. Bisogna vedere se è vero o no, però io ho lasciato così, tanto mi ha detto c'è quella del palazzo, non succede nulla. Sì, vabbè, però io qua siamo in campagna, ho letto anche qualche forum, sì, ci vuole. Io non ci parlo che i parafulmini delle strutture, qua in campagna parafulmini non ce n'è. E poi in campagna ci sono gli alberi che attirano i fulmini, ma lassù, se mi dirà Natalino cosa ne ha fatto in campagna il fulmine? Danno l'ha fatto, però l'affare dei fulmini è l'antenna stessa che li attira, sono le punte, le antenne verticali che attirano i fulmini, capito già? Avanti Bruca, stavi dicendo. Sono sempre Bruca, ma sempre anche io la televisione della Natalino. Allora io ho cambiato la palestra, non è il suo colore di prima, così, perché adesso sto tirando, sto chiudendo, quindi sta cosa sto uscendo, così diciamo che è proprio come domani. Allora, l'apparecchio qua va bene, non è eccezionale, però va bene, dai. Ti potresti mettere anche un microfono amplificato per la macchina, di modo che arrivi più forte, capito? Un microfono amplificato. C'erano quelli, guarda sul sito della Midland, dove ci sono quelli 9,90€, sono l'F100 della Midland e vanno benissimo. È questo che sto usando adesso, c'è anche l'eco, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attenzione Bruno Uragano, ecco, vedi, c'ha tutto, c'ha anche l'eco, se vuoi lo puoi anche alzare di più l'eco. Ah, che bellino che lecca sempre. Vabbè, comunque questo lo metto a casa e manca un giorno. Vabbè, se ne posso stare un attimino perché sto contando. Ciao Brunella. Ciao Bruno. Bobuti. E Bruno, non mi conosce più proprio. Cavatapie. Una voce da io sostanza di voce da ripetere. Ma ci siamo sentiti anche da poco, dai. Bravo, vedi. No, che stasera, sto usando un apparecchio che mi dava fastidio per il periodo scorso, abbiamo installato il microfono, ma mi sembra che non sia ancora molto bello, dunque questo lo tolgo e metto l'altro apparecchio, che è quello nuovo, e cambierò tutto. Ok, devo staccare un attimino, dovevo staccarlo anche. Sentiamo un altro momento. Sentiamo. D'accordo, siamo qua. È un buon lavoro. Se vuoi darmi in retta, mettici quegli apparati lì, ho il toccaio, la faiette e poi vinzi per ue. Devo frugare, poi devo andare anche a casa di Giallo Stadi con la persona che mi sta facendo un'attenzione, mio padre, perché c'è un disco scatoloni, non c'è il radiomatore che mi sta con il materiale, quando hanno messo il ghiaccio, dovevano aver spezionato qualcosa, vedete lì, il campo, è stato nella mia cosa, è riparito con una volta. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Chi c'è rimasto qua già? Io, Natalino, e poi chi c'era, e tu. Dai. Ciao Natalino, oi! Hai visto che veloce che ho fatto, eh? Anche la spazzatura buttata. E allora, cosa mi racconta? Che stamattina alle 5 stavo già cucinando la favata, che... Ah, ma la sorte... Non sai il giorno di... Ah, io so da... cosa ho cucinato, il risotto. C'è una bella favata, ci ho messo i salamini e pancetta, guarda, ma una verza, ci ho messo la cipollotto, quello lungo, poi ci ho messo i fiocchi, un mommò e un petrolio me l'ha giubato, me l'ha fritta ma domani, ma non so se poi mi ne ho usato la produzione a voi dopo l'ha giubagnato, qui si che avanza. A te immagini la favata si ha fatto questo turno, è un dilinguente. E allora, potevo dire che ti invito un amico, visto che è solo, lo invito, e ce la mangiamo insieme, invece no, è arrancato tutto. E perché tu quando ti fai la pasta al forno, che lo dici pure, e ti mangi tutte le paste con la crema, dalle laprotto così, amiliti, no? E allora, ve lo dici dopo che l'hai mangiati. Domani mia mamma faceva così, dopo la favata, il giorno dopo minestrina, perché era pesante. E quindi domani, brodo di mammo. Quello lo facciamo a Gianni. E a me mi piace il brodo, non lo scartare, ma mi piace anche di dadi. Mi piace la minestrina di dadi, mi piace. Ma io lo faccio ogni tanto. Io faccio i fiocchetti, quelli piccoli, mi ricorda la buona di mamma quando me lo faceva, raga. E altre minestrine non le compro, io solo quella compro. E la compro a Carrefour perché altre pulce non la trovo. Io le stelline, le puntine faccio, tutte queste cose qua. I risoni, i tromboni, i falconi. Oh, andiamo sempre a farmi dare di mangiarmi. Oh, ma se avere prima già bisogna parlare, boh. Ma sei uscito tu con la favata, Buddu. L'ho detto che so cosa ho fatto oggi, che lo sono spiegato, poi ho detto che ha fatto il riso, e lì per lì, insomma, gli ho girato la frittella. Comunque la favata è bello mettere tanto a testa e farla in campagna, tutti quanti insieme, e mangiarla tutti quanti insieme, in greffa. Lo so. Tu che carne ci hai messo, Tony? E ci ho messo bella pancetta, bella grande, grossa, fatta a pezzi, in due perché era troppo lunga, e poi ho preso un pacco gigante di salamini, c'era una roba di 12 mi sembra, e ne ho messo soltanto sì, l'altro ho messo in frizza così, perché fava il pacco ne ho messo solo metà di pacco, adesso posso farmi una seconda favata, poi c'è anche la verza, ne ho messo metà. Mamma ci metteva anche le zappe del maiale, la segante era di voi. Si puoi mettere tutto, anche le zampe di falcone puoi mettere. Zamponi di maiale tagliati, appesi in due, erano buonissimi, belli polposi, o di vitello, erano forse di vitello. Di maiale. Boh, vabbè, comunque, era ben buona, come la faceva mamma era buona. E poi le fave sempre di buon corpo, perché le prendeva da uno che conosceva e le dava sempre di quelle morbide. Questi sono le mo che l'ho messo ieri.